Liquori. Settecentoquarantasei. Rosolio di Portogallo. Zucchero bianco finissimo, grammi 650, acqua grammi 360, spirito divino a gradi 36, grammi 250, zafferano una presa, aranci numero 1. Levate col temperino la buccia superficiale all'arancio e ponetela nello spirito con lo zafferano, entro a un vaso coperto di carta perforata. Lasciandovela per 3 giorni, versate in un altro vaso lo zucchero nell'acqua, agitandolo di quando in quando, onde si sciolga bene, e nel 4º giorno mescolate i 2 liquidi insieme e lasciateli in riposo per altri 8 giorni. Al termine di questi, passate il rosolio per pannolino, filtratelo per carta o per cotone e imbottigliatelo.